casi di tutte queste piccole, medie, medio-grandi imprese di successo dimostrano che c'è anche una consapevolezza nelle famiglie imprenditrici che è un valore importante essere dei bravi manifatturieri e quasi essere degli artisti ormai in Italia, saper fare prodotti unici, saper valorizzare tutte queste tradizioni artigianali e soprattutto far sì che anche coloro che non sono impegnati oggi nella manifattura siano consapevoli che questo è un valore del nostro paese, può essere la cultura giusta per uscire dalla crisi, per avere più fiducia per il futuro.